24 mattino. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, ben ritrovati a tutti a 24 mattino. Alessandro torna domani, visto che molti ascoltatori già mandano messaggi chiedendo appunto notizie di Alessandro, che oggi ha semplicemente preso un giorno libero, capita. Ma veniamo alle prime pagine dei giornali e intanto ringrazio anche chi ha mandato messaggi, non tutti positivi naturalmente, alcuni abbastanza critici, ma va benissimo così, li leggo tutti. Tra l'altro come vi ha abituati Alessandro, in tanti mandate le varie temperature, mi colpisce sempre chi scrive da molto lontano, come chi scrive dall'Australia dove ci sono 20-22 gradi, ma anche chi scrive per esempio da Vienna dove ce ne sono zero. Ma veniamo alla prima pagina del Sole 24 Ore, che parte da una, visto che questo è purtroppo un po' il mese degli adempimenti fiscali, e dico purtroppo perché per quanto volentieri o meglio consapevolmente si possono pagare le tasse, non è mai piacevole, e quindi il mese degli adempimenti fiscali, tutti gli aggiornamenti, poi naturalmente Mauro Meazza ci spiegherà meglio. Fisco, compensi, burocrazia, l'allarme dei professionisti, perché come sappiamo l'Italia è anche il paese delle troppe leggi, leggine e regolamenti, e poi chi deve applicarli, per esempio i professionisti e in particolare in questo mese i commercialisti, ovviamente non ovviamente ma spesso ha grandi problemi. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore vi segnalo anche, riferito alle dichiarazioni dei redditi ormai elaborate del 2015, quindi statistiche fiscali diciamo proprio certificate e confermate, con anche gli studi di settore che nel frattempo sono stati aboliti o comunque hanno cambiato nome, partite IVA, i redditi tornano a crescere, quindi rispetto al 2014 c'è stata una variazione del 6,5%. Ultima segnalazione dalla prima pagina del giornale è il reportage da un convegno che c'è stato ieri a Milano, l'avete forse sentito anche nei GR di ieri, si chiamava il cosiddetto bello e ben fatto, cioè tutto il made in Italy, che va dal design alla moda all'agroalimentare, e questo convegno, che in realtà serviva per presentare una ricerca, esportare la dolce vita, ci fa essere ottimisti, perché se di queste, oltre che sul turismo, l'Italia puntasse su queste eccellenze che ha, si potrebbe arrivare a 70 miliardi in più di ricavi sui mercati mondiali entro il 2020. Il Corriere della Sera è l'unico giornale che non ha in prima pagina la questione di cui parlavamo prima, e che di cui sicuramente si parlerà anche oggi, che sono queste prime rivelazioni dal nuovo libro di Ferruccio De Bortoli pubblicato da Rizzoli, dove si parla anche del fatto che Maria Elena Boschi, quando era ministro delle riforme nel 2015, avrebbe chiesto a Federico Ghizzoni, che all'epoca era amministratore delegato di Unicredit, seconda banca italiana, di comprare Banca Etruria per salvarla. Ricordiamo che poi Federico Ghizzoni poi nel maggio del 2016 è stato di fatto dimissionato, se n'è andato con una liquidazione di 10 milioni di euro, e dopo averne guadagnati circa 5 nell'anno precedente. Vedremo insomma se oggi arriverà una parola di Ghizzoni sulla questione, però sul Corriere della Sera non se ne parla, forse anche perché c'è una sorta di non di conflitto di interessi, però comunque il Corriere della Sera in qualche modo parte in causa, perché Ferruccio De Bortoli, oltre ad essere stato per due volte Corriere della Sera, è ancora oggi editorialista del Corriere della Sera, quindi con una sorta di delicatezza ma anche di understatement, il Corriere della Sera non riporta queste prime reazioni scatenate dalle anticipazioni sul libro di De Bortoli. Il titolo principale riguarda invece Trump, perché sì, si parla tanto di Obama e c'è anche la notizia di Obama che ieri ha parlato a Milano, ma nel frattempo Trump ha licenziato il capo dell'FBI. Clamorosa mossa della Casa Bianca, ha gestito male la vicenda Clinton. La fotonotizia però è di Emmanuel Macron, che si fa un selfie con una sua sostenitrice all'uscita dal barbiere dove era stato a Parigi, e ci sono tutti gli aggiornamenti su come sul riassestamento della politica francese dopo la vittoria di Macron. Stefano Montefiori, corrispondente da Parigi: Moscovici e i socialisti, non finiremo macroniani. Sapete che una delle dichiarazioni forti di ieri è stata quella di una sinistra che esce sicuramente sconfitta da tutto il mandato di Hollande e da questo doppio turno di presidenziali, però alcuni esponenti della sinistra dicono comunque pensiamo, non vogliamo diventare appunto fare il partito, quello che qui in Italia chiamavamo il partito della nazione, quando Renzi era al picco dei consensi, noi vogliamo restare, naturalmente prendendo atto degli errori e dei segnali che arrivano dagli elettori, vogliamo restare un vero e proprio partito di sinistra. La Repubblica titola sulla vicenda Boschi: Etruria, scoppia un caso Boschi. Vi lascio immaginare quanti, vabbè, due pagine, un commento di Stefano Cappellini, un altro di Stefano Folli, pagina 31, di tutto di più. Piccola fotonotizia dedicata a Trump che rimuove il capo dell'FBI, e però la fotonotizia principale è un gommone carico di migranti al largo delle coste libiche, perché c'è stato un forum ospitato da Repubblica con al centro il ministro dell'Interno Minniti, e il virgolettato scelto per poi intitolare questo forum, che trovate le pagine 2 e 3, di Minniti: paura e illegalità gonfiano il populismo, la sicurezza è di sinistra. La Stampa mette insieme tre notizie di ieri: la Boschi, la polemica, l'ennesima polemica sui rifiuti che si stanno di nuovo accumulando a Roma, e quindi il PD che accusa la giunta di Roma, guidata da Virginia Raggi del Movimento 5 Stelle, di aver fatto passare tutti questi mesi senza di fatto migliorare la situazione della raccolta dei rifiuti, che è uno dei nodi della mala gestione di Roma. E poi la questione dei 5 Stelle invece a Palermo, dove ci sarebbe un audio che inguaia un candidato sindaco appunto di Palermo del Movimento 5 Stelle. Quindi, per riunire queste tre notizie, che poi vengono trattate separatamente, la Stampa titola PD 5 Stelle, battaglia su tre fronti. La fotonotizia però è dedicata alla vittoria di ieri della Juventus, che battendo il Monaco 2-1 si è guadagnata la finale contro che si giocherà, e la sua avversaria sarà una delle due squadre di Madrid, o il Real Madrid o l'Atletico Madrid. Lo sapremo stasera dopo la partita. Il Messaggero ha un titolo ancora diverso ed è sulla questione Alitalia, che non è assolutamente risolta, e addirittura, secondo il Messaggero, ci sarebbe in vista un referendum bis. Sapete che al referendum che ha sottoposto ai dipendenti dell'Alitalia il preaccordo che era stato siglato tra la compagnia e i sindacati, i dipendenti hanno bocciato questo accordo, e ora Anna Maria Furlan, segretaria della CISL, secondo sindacato italiano, scrive il Messaggero, spacca il fronte sindacale. Grave errore la votazione che ha bocciato l'accordo. Si fa strada l'idea di una nuova consultazione sul piano di salvataggio studiato da Renzi. Messaggero, unico giornale a mettere in prima pagina, con una fotonotizia, l'esito delle elezioni in Corea del Sud, che sono sicuramente un fatto importante, un po' perché la Corea del Sud era uno dei paesi dell'Asia che si stava modernizzando più velocemente, o addirittura anzi era più che emersa come economia, ed era un po' la nuova star vista la deflazione e la recessione di cui che ha visto il Giappone in grande difficoltà per molti anni. Poi c'è stato lo scandalo politico, c'è la crisi con la Corea del Nord, che non è da sottovalutare, e adesso, scrive il Messaggero in prima pagina, svolta a Seul, eletto il presidente che vuole un accordo con Kim, cioè il dittatore della Corea del Nord. Mattino. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, buon mercoledì. Grazie a tutti gli ascoltatori che stanno mandando messaggi, anche a chi segnala appunto le varie temperature. In molte parti del nord Italia sono ancora molto basse, specie al mattino. Eravamo sulle prime pagine dei giornali e vi dicevo, il Corriere è l'unico che non ha in prima pagina la notizia innescata dalle anticipazioni del nuovo libro di Ferruccio De Bortoli. Libero invece titola tutta pagina: Siluro alla Boschi, lanciato da De Bortoli, ex direttore del Corriere. La fotonotizia però è di Matteo Salvini che tiene la mano di Marine Le Pen in un incontro che avevano avuto, e Vittorio Feltri, direttore di Libero, si chiede: la Le Pen perde e attaccano Salvini, che c'entra il centrodestra italiano con il voto francese? Questa è la copertina di Libero. La verità è invece: la Boschi cercò di rifilare all'Unicredit la banca decotta del padre. Il libro, che appunto esce domani, questo libro I poteri forti o quasi di Ferruccio De Bortoli, pubblicato da Rizzoli, contiene anche un passaggio su questo incontro tra Maria Elena Boschi e l'allora amministratore delegato di Unicredit, seconda banca italiana, Federico Ghizzoni, al quale, secondo la ricostruzione di De Bortoli, Maria Elena Boschi chiese proprio di comprare Banca Etruria per salvarla, perché era appunto, come dice la verità, decotta. L'unità 333 giorni di niente. 333 sono i giorni di vita della giunta Raggi, che guida Roma, e sapete che c'è questa polemica perché di nuovo Roma è incapace di smaltire i rifiuti. L'inchiesta però interessante dell'unità, che trovate a pagina 6, è sullo stato delle strade in Italia. Perché si sbriciolano come wafer, si legge nel titolo dell'unità. Cedimenti, crolli, buche per scarsa manutenzione di arterie vecchie e fatte male, e per una gestione disunita. Il manifesto ha il solito titolo un po' così immaginifico quasi: Ermonnezza. Ermonnezza sarebbe non il personaggio interpretato da Thomas Milian al cinema, ma lo stesso Renzi. Roma è invasa dai rifiuti, puliamola noi, questo ha dichiarato Matteo Renzi ieri, che secondo il manifesto adesso fa il grillino, trasforma l'emergenza immondizia nella capitale in show politico. In prima pagina anche la notizia sulla Boschi: De Bortoli, due punti, Boschi chiese a Unicredit di comprarla. Il Fatto Quotidiano ovviamente si salta su questa notizia, e addirittura, se la Stampa, abbiamo visto, metteva insieme le tre notizie politiche di ieri, cioè i rifiuti a Roma, appunto questo incontro tra Boschi e Ghizzoni, che lo ricordiamo nel maggio del 2016 è stato licenziato di fatto da Unicredit con una liquidazione di 10 milioni di euro. Oggi l'amministratore delegato di Unicredit è un francese, Jean-Paul Moustier. La Stampa metteva insieme queste tre vicende politiche, la Boschi, i rifiuti a Roma e i dubbi sulla trasparenza del curriculum e del passato di un candidato sindaco a sindaco di Palermo del Movimento 5 Stelle, il Fatto Quotidiano scrive invece: sono come Berlusconi. Chi sono questi che sono come Berlusconi? Sono, e ci sono le fotografie, il padre di Maria Elena Boschi, Maria Elena Boschi, Matteo Renzi e il padre di Matteo Renzi. Affari di famiglia, conflitti di interesse, abusi di potere e attacchi ai magistrati. L'Avvenire invece parte da un'indagine della CISL diffusa ieri, e il titolo principale dedicato a questo studio: la coesione sociale sfregiata dalla crisi. Molti indicatori infatti di questo studio mostrano un panorama, un quadro, dipingono un quadro del quale in realtà molti altri studi avevano già parlato, ed è che siamo un paese sempre più a due velocità. In prima pagina, non con lo spazio che ha scelto di dedicare il Messaggero a questa notizia, ma comunque in prima pagina, l'esito delle elezioni dicevamo in Corea del Sud, dove ha vinto un candidato che fin dalla campagna elettorale ha dichiarato di voler far ripartire seriamente il dialogo con la Corea del Nord. Sulla prima pagina del foglio, divertente il piccolo corsivo, la rubrica di Maurizio Crippa sulla vicenda Boschi. Il Foglio Quotidiano è forse il giornale italiano che chiude prima, perché e lo scrive anche sulla prima pagina. Quindi ieri per esempio è stato chiuso in redazione alle 8:30, nessuna modifica dopo quell'ora, ma è riuscito comunque a dar conto di queste anticipazioni del libro di De Bortoli. E poi molto divertente, come sempre, la rubrica di Annalena Benini, che si è dedicata oggi alla storia tra Fedez e Chiara Ferragni. Fedez, sapete, ha chiesto alla fine di un suo concerto a Chiara Ferragni di sposarlo, e lei ha anche detto di sì. E Annalena Benini, insomma, ci parla di questa inst addiction, perché tutte queste vicende sentimentali sono documentate su Instagram quasi minuto dopo minuto. Tra l'altro, a Chiara Ferragni e Fedez va l'ennesima copertina oggi, che è quella di Chi, insomma, proprio al centro dell'attenzione mediatica questa coppia. Proprio il contrario dell'understatement amoroso, ma non sono certo il primo caso, non saranno l'ultimo. Vi segnalo la prima pagina del Secolo XIX, che ha lo stesso titolo della Stampa, perché sapete che i due giornali fanno parte della stessa società, quindi PD e Movimento 5 Stelle con le crisi, con i fatti politici di ieri. La fotonotizia però è bellissima: è una bambina seduta davanti a una delle piscine, delle vetrate, delle piscine dell'acquario di Venezia, dove c'è una mamma delfino con il suo piccolo delfino subito sotto di lei. L'acquario di Genova, che è il più bel acquario d'Italia, ha compiuto 25 anni, e ci sono molti piani sia per ampliarlo che anche per costruire attorno nuove strutture, possiamo dire, di divulgazione scientifica, e di questo parla il Secolo XIX. La prima pagina del giornale sceglie di titolare, comunque di mettere subito sotto la testata del giornale, in quello spazio che si chiama in gergo palchettone, la notizia della Boschi: la Boschi avrebbe mentito per salvare il papà e la banca. E poi però il titolo principale fa riferimento a un'inchiesta del giornale, che poi trovate da pagina 2 a pagina 4, di nuovo sulla questione delle ONG e del ruolo che hanno, e dei rapporti che alcune di queste vengono accusate di avere con gli scafisti. Ma veniamo alle pagine interne. Allora, per chi, senza comprare il libro che è in edicola domani, è in libreria domani, ma in realtà, se lo volete, compratelo il libro. Io sono grande, io stessa acquirente compulsiva di libri, ma comunque, insomma, bello avere lì questo oggetto e poterlo consultare. Se però siete curiosissimi di leggerne i primi stralci, a pagina 6 del giornale ce n'è comunque appunto una parte, tutta una pagina con parti di questo libro. Dove ci sono anche altri episodi. Mi ha colpito questo, per esempio, che si racconta di avvenuto nell'agosto del 2014 a Forte dei Marmi, con una reazione esagerata di Renzi al fatto che l'inviato del Corriere della Sera alloggiasse nel suo stesso albergo. Però torniamo a cose, non dico più serie, perché, per carità, la vicenda Banca Etruria è serissima, gravissima, e coinvolge tra l'altro moltissimi risparmiatori. Però cose più concrete, ecco, dove non si fa questo gioco di smentite contro smentite. E perciò do il buongiorno a Mauro Meazza, che ci riporta alla concretezza del Sole 24 Ore. Buongiorno, buongiorno Giulia. Guarda, sì, oggi innanzitutto con il Sole 24 Ore, a proposito di impegni concreti, sai che diamo anche questo speciale, questo focus, 16 pagine, sul modello redditi. Una volta si chiamava modello unico, però non fare questo errore, mi raccomando. Adesso da quest'anno modello redditi per le società. Perché sai, il fisco non sta mai fermo, è un po' come l'Inter con gli allenatori, quindi cambia sempre le regole, le ha cambiate anche in prossimità della dichiarazione dei redditi, un po' le ha modificate a novembre, un po' cambiano con la manovrina. Allora teniamo il passo grazie a questo speciale, a questo focus che trovi oggi con il Sole 24 Ore. Se vuoi però io posso anche regalartelo poi più tardi al Va bar, a bene. differenza di quel Lazzarone di Alessandro. A proposito, ma è andato ad accompagnare Obama alla stazione? Se Penso di questo sì, perché forse la tariffa Airbnb comprendeva anche il anche che passaggio. lo accompagnasse alla stazione, certo, perché avrà preso magari un treno molto mattiniero, molto antelucano per risparmiare qualcosa, e quindi giustamente Alessandro lo ha accompagnato. Bene, ma detto questo, ti dicevo, il fisco che non sta mai fermo, infatti se leggi, come farai sicuramente, le pagine di norme e tributi religiosamente, così come si conviene, apprenderai anche che sta per arrivare, arriverà, insomma, speriamo presto, questo mini rinvio di 10 giorni per i dati sulle liquidazioni IVA. Anche qui nuove normative che arrivano, cambiano quello che si era definito magari solo pochi mesi prima o poche settimane prima, quindi bisogna poi rincorrere. E questo è un po' alla fine, se vuoi, uno dei tanti motivi che alimentano quell'allarme dei professionisti di cui oggi scriviamo in prima pagina, perché in effetti ci sono stati diversi interventi, anche da ultimo, che stanno preoccupando non poco le categorie, ad esempio lo split payment, ma adesso non ti voglio tediare con queste vicende. Vorrei invece che tu mostrassi due grafici agli ascoltatori. Mm-hmm. L'uno sta in prima pagina, mm-hmm, e si vede l'andamento dei redditi delle categorie soggette agli studi di settore. Ecco, se lo puoi mostrare, sì, perché lì si vede un segnalino di ripresa, mm-hmm, insomma, un segnalino di ripresa. Nelle dichiarazioni c'è stato un miglioramento, però poi se leggi Marco Mobili e Giovanni Parente in pagina 2 vedrai che questa ripresa è molto blanda, tanto più che andando nelle pagine Imprese e Territori, che tu leggerai scrupolosamente, mi immagino, uh-huh, ecco, vedrai che invece sui consumi le cose continuano a non andare bene, cioè praticamente siamo sempre fermi ai dati, se non addirittura in retrocessione. Oh, l'altro grafico invece che ti vorrei che tu mostrassi agli ascoltatori è quello, ancora nelle pagine di Imprese e Territori, che sei già lì, sei comoda, per quanto riguarda il divario nord-centro-sud, soprattutto in termini di occupazione e di opportunità. Ecco, viene da una ricerca CISL di cui anticipiamo dei dati, fa vedere che purtroppo l'Italia continua ad avere almeno 2 velocità, se non 3. Volevo chiederti qualcosa sull'occhialeria? No, non te lo chiedo. Senza entrare nel dettaglio dell'articolo, visto che parliamo di bello e ben fatto italiano, l'occhialeria italiana è, noi siamo leader nel mondo negli occhiali di fascia medio-alta e alta, esportiamo il 98% di quello che produciamo, quindi un piccolo orgoglio nazionale. Ah, ma ti trovo molto informata, per quello allora scrivi oggi sul Sole 24 Ore proprio di occhialeria, e vedi che sempre ogni pagina, come dire, trova qualche cosa da segnalare. E poi, da ultimo, ma non per questo meno importante, qualcuno avesse dimenticato di segnalare qualche reddito all'estero, qualche patrimonio all'estero, può capitare, insomma, dicevamo il fisco cambia sempre le regole, ecco, adesso c'è un software a disposizione per calcolare cosa ti potrebbe costare la voluntary disclosure, la voluntary disclosure che tu ovviamente conosci, anche se non, a differenza di Alessandro, non hai urini in giro per il mondo da recuperare. Oh, siccome tu ti occupi spesso di moda, io vorrei concludere chiedendoti cosa ne pensi dell'allenatore primavera-estate dell'Inter, come appunto avrai avuto occasione di sentire dal GR, abbiamo sostituito quello che era per la stagione autunno-inverno, mi pare che sia così, no? Che viaggiano nella moda, sì. Ecco, adesso abbiamo un allenatore per primavera-estate, vediamo poi cosa facciamo per la collezione prossima. Va bene, oggi è un giorno importante, Giulia, approvano finalmente il Jobs Act del lavoro, yes, autonomo, tutti i particolari in pagina 3, altro non ti vo' dir, a questo punto, traffico! Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. All'ascoltatore che manda un WhatsApp al 349-238-6666 dicendo che libro, lo ringrazio perché mi dà anche l'occasione per fare una precisazione. Il libro si chiama Poteri forti, tra parentesi o quasi, memoria di oltre 40 anni di giornalismo. Il capitolo da cui è tratta la frase su Maria Elena Boschi, che avrebbe incontrato Federico Ghizzoni, all'epoca ex amministratore delegato di Unicredit, è il capitolo che si intitola Renzi, ovvero la bulimia del potere personale. Ma io ho detto che il libro era pubblicato da RCS, mi ha ingannato vedere la copertina che mi ricordava quelle di RCS. No, il libro è edito dalla Nave di Teseo, che è quella casa editrice fondata un anno e mezzo fa da Elisabetta Sgarbi, che proprio era andata via dalla RCS perché era responsabile di una delle case editrici di RCS, che è la Bompiani. Tra l'altro, per chi è a Milano ed è incuriosito, come penso sia per molti di noi, da questo libro, oggi alle 6, questa sera alle 6, lo verrà presentato al Teatro Parenti di Milano. Dalle pagine interne del giornale vi segnalo, visto che abbiamo seguito le elezioni francesi, più tardi in autunno ci saranno quelle tedesche, ma l'8 giugno ci saranno quelle della Gran Bretagna, le elezioni anticipate convocate da Theresa May proprio dichiaratamente per avere un mandato più forte, più chiaro per negoziare le condizioni della Brexit, dell'uscita della Gran Bretagna del Regno Unito dall'Unione Europea. E quindi su queste elezioni si concentra Enrico Franceschini, inviato a Londra della Repubblica, una giornata con Jeremy Corbyn, che è il leader del Partito Laburista, che sapete alle ultime elezioni ha preso una stangata non indifferente. Dice che, nonostante i sondaggi in crollo, lui dice: la gente è stanca, vedrete, il leader laburista non si arrende, possiamo vincere. E una storia bellissima la racconta sempre su Repubblica Gaia Scorza Barcellona, ed è di una grande primatologa italiana, quindi sapete, forse la più grande primatologa mondiale, non è italiana, però Chloé Cipolletta, appunto, di cui si parla poco ma che ha lavorato tantissimo per 20 anni, e sono 20 anni che studia in Africa i primati, un gorilla per amico, salvare le grandi scimmie sarà l'ecoturismo consapevole. Naturalmente su tutti i giornali trovate approfondimenti sulla Biennale d'arte di Venezia, che si apre oggi appunto a Venezia, e su Repubblica per esempio ne parla Natalia Aspesi: l'arte più sveglia che mai. Il motto di questa 57esima esposizione internazionale d'arte è viva arte viva. Ci sono naturalmente anche tantissimi, sapete che la Biennale è divisa in padiglioni, padiglioni nazionali, ci sono tantissimi artisti anche italiani. Vi segnalo sulla Stampa un approfondimento sul tema della celiachia. Sappiamo che è come se fosse una malattia che abbiamo scoperto di avere. Ci sono i produttori, tutti i grandi produttori di cibo hanno adesso quasi tutti dei prodotti che non contengono glutine. E quindi Lidia Catalano da Torino ci fa un po' il punto sulla situazione. Il boom dei celiaci per moda, i benefici, un falso mito. 6 milioni di italiani consumano cibo per intolleranti senza essere appunto intolleranti al glutine, perché i casi accertati di intolleranza al glutine sarebbero 190.000. Una notizia così curiosa dalla Stampa, che ogni giorno ha questa bella pagina dedicata a storie che sicuramente non sono grandi notizie, ma piccole storie, ma le piccole storie a volte sono piccole grandi storie. Ecco, qui per esempio dal Lago Maggiore Chiara Fabrizi ci a proposito di ecoturismo, ambientalismo e corretto rapporto tra l'uomo e tutti gli altri abitanti del pianeta, piante e animali, il Lago Maggiore contro i ladri dei piccoli cigni. Infatti vengono appunto i cigni, essendo degli uccelli, depongono le uova, ma spesso queste uova vengono rubate, suppongo per mangiarle, per provare il brivido di una frittata di uovo di cigno. Vi segnalo per chi volesse seguire, e oggi è praticamente l'unico giornale che se ne occupa nel dettaglio della vicenda Alitalia, le pagine interne del Messaggero, con questa ipotesi che soprattutto la leader della CISL Anna Maria Furlan, in contrasto con CGIL e UIL, stia proponendo un referendum bis su quell'accordo, preaccordo tra sindacati e compagnia, che è stato bocciato. Di glutine si occupa anche il Messaggero nella prima pagina di Macro. Il paradosso del glutine: 6 milioni di italiani mangiano come i celiaci senza esserlo, mentre i veri malati ricevono tardi la diagnosi. Comincia la settimana dedicata a una patologia sempre più diffusa. All'ascoltatore che giustamente dice: anziché parlare soltanto di quanti muoiono nel Mediterraneo, fate anche i numeri di quanti sono stati salvati. Ecco, l'Avvenire a pagina 6: sono 43.245 i migranti soccorsi in mare dal 1 gennaio 2017, e sono però 1.300 i profughi morti dall'inizio dell'anno. e soprattutto i bambini hanno sofferto, sono 27.995 migranti minori non accompagnati scomparsi, questo nel 2016. Poi vi segnalo un'anomalia, un titolo così che colpisce, Obama che viene definito Papa Nero. Sapete che Papa Nero è uno dei modi per definire il numero uno della Compagnia di Gesù, cioè la persona che sta al vertice dei gesuiti. Perché chiamare Obama Papa Nero? Comunque lo fanno sia Libero, abbiamo il Papa Nero, Obama comanda e predica, sia nelle pagine nazionali che in quelle di cronaca locale. Milano sedotta dal Papa Nero, Maroni vuole assumerlo. E vabbè, era però l'ultima segnalazione per oggi, mi fanno segnali Carmelo Lauricella, scusa per questi 30 secondi di ritardo, grazie a Lorenzo Nespoli in regia, ancora un buon mercoledì da Giulia Crivelli.